Perfetto Giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Ed eccoci al podcast di Effetto Giorno, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati, grazie per averlo scaricato, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per avere l'update, l'aggiornamento, la piccola notifica che vi dice sul vostro browser o sul vostro smartphone quando arriva il nuovo podcast di Effetto Giorno. Scrivetemi, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure il mio account Twitter. Di cosa parleremo oggi? Continua a rompere delle bottiglie, dei bicchieri, si ferisce sulle braccia, le mani, il costato con pezzi di vetro, però sembra poi essersi in qualche modo calmato. Sembra essersi calmato l'uomo che questa notte ha ucciso un ragazzo di 27 anni a Terni, un uomo di origine marocchina che era stato espulso nel 2007. Apriremo con questa storia, quelle che avete sentito sono le parole del questore ed è una storia che colpisce molto, anche perché quest'uomo almeno in teoria non doveva trovarsi sul nostro territorio. Su questo sentiremo anche la voce del ministro dell'Interno Angelino Alfano. La lunga gestazione, il parto in realtà è stato indolore, anzi molto, direi, gioioso, come ha potuto vedere. Non siamo in un reparto di ostetricia, questo è un altro ministro, è il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che abbiamo intervistato oggi, con la quale abbiamo parlato di quelli che ci sono apparsi i punti più critici di questo DDL sulla scuola che è stato appena varato. Innanzitutto questa grande discrezionalità concessa ai presidi, tanto nella scelta dei docenti quanto nella scelta di chi premiare alla fine dell'anno. C'è chi denuncia, come la UIL, un rischio di vero e proprio clientelismo. Ne parleremo, sentiremo tra poco l'intervista al ministro. I am totally excluding a failure. I don't want a failure. I would like the Europeans to grow together. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel giorno dell'incontro con il premier greco Alexis Tsipras, dice Juncker, lo avete capito benissimo, non voglio un fallimento, non voglio un fallimento dei colloqui. Incitamenti a violenza sessuale, incitamenti all'omicidio, incitamenti a... ho visto post che addirittura invocano i forni crematori o quant'altro. Quello che avete sentito è l'avvocato legale della famiglia della 17enne genovese, avrete visto il video su internet, ripresa mentre picchia selvaggiamente una ragazzina di 12 anni. Che cosa è successo? È successo che la ragazza naturalmente si è pentita e però nel frattempo è stata aperta una pagina Facebook contro di lei dove si trovano insulti anche come quelli che avete sentito. A questo punto la ragazza ha paura ad uscire di casa, sono arrivati molti sms in trasmissione su questo, qualcuno ne leggerò. Iniziamo, come abbiamo detto, però con la cronaca da Terni e quello che è successo ieri notte. Espulso nel 2007, eppure di nuovo in Italia, libero di ubriacarsi e colpire la prima persona che gli si è parata di fronte, uccidendola. L'uomo arrestato a Terni per l'omicidio di David Raggi è un marocchino che al momento del fermo non aveva i documenti. Gli investigatori stanno ricostruendo come e quando sia tornato nella città umbra. Lo straniero ha dato in escandescenza in un bar per una birra negata. Ha rotto bicchieri, bottiglie, si è ferito. Sono intervenuti anche due agenti che erano nello stesso locale. Il racconto del questore Carmine Belfiore. All'interno del locale ci sono anche tra gli avventori due operatori di polizia che, vista la scena, si avvicinano e cercano di portare a ragione, quantomeno calmare il soggetto. La cosa non è semplicissima perché ne nasce una colluttazione. L'allarme ai colleghi del 113 è partito subito, ma la pattuglia non ha fatto in tempo ad arrivare all'esterno del bar, da dove nel frattempo il marocchino era uscito con una bottiglia rotta in mano. Deve aver incrociato lo sguardo del 27enne. Alcuni testimoni sostengono di averlo sentito rivolgersi al giovane dicendogli «Che mi guardi, cosa vuoi?». Poi il colpo al collo. Il ragazzo è morto quasi subito. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche su questi temi, oltre che sui provvedimenti presi ieri dal Consiglio dei Ministri, Vincenzo Miglietta ha intervistato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Sentiamo la sua voce. Nelle nostre città vi è stato un calo complessivo dei reati nel 2014 superiore al 7%. L'unico reato che non è calato, sebbene è aumentato di pochissimo, cioè dello 0,1, è esattamente quello dei furti in appartamento. Ecco perché abbiamo chiesto e ottenuto un pronunciamento politico del Consiglio dei Ministri per il raddoppio delle pene. La strada è quella di inserirlo nella legge sulla sicurezza urbana. Non solo ministro ordine pubblico nei lavori del Consiglio dei Ministri di ieri, ma anche la scuola. Quali secondo lei gli elementi più importanti? Due aspetti. Il primo è quello che riguarda il merito, e cioè non solo l'anzianità a determinare la progressione di carriera dei professori, ma anche il merito, quindi si introduce la meritocrazia in una carriera solitamente ingessata e paralizzata da scatti frutto solo dell'anzianità. L'altra questione riguarda le detrazioni per tutti relativamente alle scuole paritarie. Si è affermato che tutta la scuola è pubblica perché esercita un'attività pubblica anche se non è gestita dallo Stato o da enti pubblici, e questo è un risultato di straordinaria importanza che è sempre stato tra i desideri, le ambizioni dei moderati italiani e nei programmi del centrodestra. Dunque un altro risultato scritto con la mano destra. Noi abbiamo percepito le difficoltà di un pezzo della sinistra ad accettare questo risultato, e dunque non abbiamo fatto uno scontro per la esclusione delle superiori da questo disegno di legge, però è evidente che abbiamo già fatto un gol, ed è un gol importante che riguarda le detrazioni per tutti. Questo mi sembra molto importante. E infine il tema di dare più poteri ai presidi è un tema importante, perché si individua un leader della scuola, uno che può esercitare una funzione di comando e al tempo stesso essere responsabile per il risultato educativo della sua scuola. Ecco ministro, passiamo alla cronaca, alla vicenda delle ultime ore di Terni. Al di là delle dinamiche e delle responsabilità che saranno accertate, la persona arrestata è un extracomunitario espulso nel 2007. Cosa allora non ha funzionato secondo lei, e perché questa persona è ancora sul territorio italiano? Perché ha fatto una richiesta d'asilo ed è stata respinta la richiesta di asilo, e dunque ha presentato ricorso, e nel momento in cui presenta ricorso non ci può essere un provvedimento di espulsione in attesa del pronunciamento sul ricorso. Lui deve adesso pagare fino in fondo per questo ignobile omicidio, e deve pagare nel momento stesso in cui entra in carcere, non uscendo più da lì. E questo è l'obiettivo di uno Stato che deve, nei limiti dello Stato di diritto, fare paura a chi fa delle cose ignobili e vergognose come quella accaduta questa notte. Ministro, un'ultima domanda. Il caso Battisti... Cosa sta succedendo in Brasile? Sono in contatto con il nostro punto di riferimento della polizia lì in Brasile, che ha molto cooperato per l'arresto, e stiamo approfondendo gli aspetti giuridici. Il Ministero degli Esteri ha lavoro anche su questo. Battisti è una persona che deve rientrare in Italia, e per questo ci siamo sempre battuti e non smetteremo di batterci per questo obiettivo. Ancora la cronaca, vi abbiamo fatto sentire una parte della voce dell'avvocato nei nostri titoli iniziali, l'avvocato Andrea Martini, che è legale della famiglia della 17enne genovese ripresa mentre picchia selvaggiamente una ragazzina di 12 anni. Questa ragazza di 16 anni adesso ha paura ad uscire di casa. È stata aperta una pagina Facebook, tra poco sentiremo un'intervista all'avvocato che ci racconta esattamente che cosa succede. E poi voglio leggere alcuni degli sms vostri che sono arrivati ed eventualmente avviare una piccola riflessione che possiamo proseguire anche tramite social media, oppure se volete anche via mail. Sentiamo intanto l'intervista all'avvocato Martini. Volevo innanzitutto fare una premessa molto rapida ma credo doverosa, e cioè che né da parte della mia assistita, che come sappiamo è una ragazzina di soli 16 anni e mezzo circa, né da parte dei suoi familiari c'è un atteggiamento di sottovalutazione o tentativo di ridimensionamento rispetto alla gravità di quello che è successo. Questo credo sia doveroso premetterlo per inquadrare bene quella che è la posizione delle persone che seguono questa che sono coinvolte. Sì. Esattamente. Quindi la ragazza, che peraltro è stata già interrogata dal magistrato, ha ampiamente ammesso i fatti, si è mostrata convintamente pentita e sta cercando di ottenere il perdono da parte della giovane vittima e dei genitori di questa ragazzina di soli 12 anni. Quindi diciamo che l'atteggiamento da parte di questa mia assistita è un atteggiamento di totale contrizione. Come del resto è giusto che sia. Allora ci dica però che le sta succedendo. Bene, si è verificato un fenomeno in base al quale ignoti soggetti hanno subito dopo l'episodio aperto una pagina su Facebook che sta convogliando migliaia e migliaia, circa 20.000 messaggi di contenenti insulti, minacce gravissime, anche istigazione a compiere reati contro la mia assistita, anche cose oggettivamente disgustose, incitamenti a violenza sessuale, incitamenti all'omicidio, incitamenti a ho visto post che addirittura invocano i forni crematori o quant'altro. Ecco, per cui si verifica una situazione in cui questa ragazzina, che non dimentichiamolo, ha solo 16 anni, ora si trova al centro di un attacco mediatico di gravità inaudita, e stiamo cercando in tutti i modi di ottenere da parte del social network la cancellazione di questa pagina. E finora non ci siete riusciti? È molto difficile, perché Facebook, come forse tutti i social network, è una sorta di via di mezzo tra il Far West e la giungla. Il server è in California, quindi non soggiace alle leggi italiane. Non esiste un soggetto interlocutore al quale rivolgersi, cioè non esiste un ufficio, un centro di imputazione a cui io possa inviare una lettera o quant'altro. La polizia postale di Genova si è attivata, devo dire la verità, su nostra segnalazione in maniera sollecita e assolutamente rapida. Però, ma anche loro si sono trovati di fronte a un muro di gomma. Ci scrive qualcuno come Patrizio: io denuncerei anche quelli che erano lì, che ridevano e filmavano, e su questo si può anche ragionare, c'è qualcosa su cui ragionare. Ancora qualcuno dice: è davvero giusto che la ragazzina provi vergogna e che le serva per capire i suoi errori e sia monito per altri coetanei? Anche in questi tempi bui non tutto è lecito e socialmente accettato, giustissimo. Ancora qualcuno scrive: cosa si aspettava, che le dicessero brava? Meno male che certe cose non vengono approvate, basta eliminare la pagina Facebook. Ma ci scrivete, ma come avete sentito non è così semplice. E poi qualcuno che mi fa questa osservazione: io ho parlato in trasmissione di una ragazzina di soli 16 anni, e dite no, è un errore questo, lo dite in una maniera un po' più brutale, no? Solo a 12 anni funziona, a 16 anni si è già grandicelli. È vero, è pur vero, però è vero anche che a 16 anni si è ancora in piena adolescenza. Che cosa passi nella nostra testa durante l'adolescenza? Beh, su questo vi invito a fare un piccolo esercizio di memoria. Passiamo ad altro. E passiamo appunto all'intervista al ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, con la quale siamo partiti proprio dalla maggiore autonomia concessa alle scuole, dalla maggiore autonomia concessa ai presidi, e al rischio che si generino dei fenomeni di clientelismo, per così dire, visto che i presidi possono scegliere dei docenti specifici e possono decidere anche loro chi verrà premiato alla fine dell'anno. Sentiamo il ministro Giannini partendo proprio da qua. La lunga gestazione, il parto in realtà è stato indolore, anzi molto direi gioioso, come ha potuto vedere. La lunga gestazione di questo progetto ha portato, a mio parere, molto positivamente a spingere all'estrema conseguenza il principio cardine, che è l'autonomia della scuola e delle scuole. Cioè, noi vogliamo un sistema che restituisca dalla carta di una legge del 99 che non è stata mai attuata, non per demeriti o per inconsapevolezza di chi mi ha preceduto in questo ruolo e dei governi che si sono succeduti, ma per mancanza di risorse umane, di strumenti organizzativi e gestionali e di volontà politica e anche quindi di risorse finanziarie, e che quindi è rimasta un bel principio teorico. Allora, il primo elemento in tutti i processi in cui autonomia significa responsabilità diretta e quindi essere poi chiamati anche a rispondere delle azioni che si fanno, delle scelte che si fanno, è che chi governa il processo possa e debba, come diritto e dovere, decidere, fare delle scelte, naturalmente secondo criteri di massima trasparenza, perché quello che lei ha detto è verissimo, il preside sceglie, ma come sceglie? Sceglie sulla base di un elenco, diciamo, di un albo che verrà per la prima volta reso noto a tutti i genitori, a tutti gli studenti, a tutti i cittadini italiani, così come avviene già in molti paesi, e che diventerà la fotografia istantanea della scuola italiana. Quindi la scelta chiaramente ha sempre, come tutte le scelte, un margine di discrezionalità, ma se ha un perimetro molto seriamente costruito, e soprattutto se è trasparente e chiamata alla responsabilità del risultato, è il vero modo per attuare l'autonomia. Sì, questo vuol dire, mi scusi, Ministro, la voglio mettere molto semplice anche per i nostri ascoltatori. Questo vuol dire, mi scusi, dato che ha parlato di responsabilità, che nel momento nel quale queste scelte non fossero ritenute giuste, in questo caso dagli stessi docenti o eventualmente anche da chi vive il mondo della scuola, a risponderne saranno direttamente i dirigenti scolastici? Certo, vuol dire che il meccanismo di valutazione dei risultati, che riguarderà i risultati delle scuole, che riguarderà i risultati della didattica, dell'apprendimento degli studenti, sarà naturalmente attribuito anche e soprattutto ai dirigenti scolastici per la parte che gli compete. Quindi c'è anche una parte del disegno di legge, che poi il Parlamento, ovviamente si tratta di un disegno di legge, potrà arricchire, potrà modificare, spero anche migliorare, che riguarda proprio questo, cioè chi ha una responsabilità così forte deve essere non solo in grado di renderne conto, ma anche di essere valutato sui risultati. Dal punto di vista dell'essere chiamati dalla scuola per venire ad insegnare là, ripeto, non c'è un po' il rischio che si vada per conoscenze, molto semplicemente? Sa, questo è comprensibile, mi permetta di dire, in un paese come il nostro, che ha un po' la cultura, no? Diciamolo, in tutti i settori, i settori della filiera dei rapporti personali e della conoscenza diretta piuttosto che della selezione per curriculum, no? E noi cerchiamo di andare esattamente nella direzione opposta. Se tu rendi la motivazione della tua scelta trasparente, che vuol dire trasparente? Cioè comparabile, quindi scelgo Stefania e non scelgo Giovanni perché Stefania ha fatto delle cose, ha insegnato delle cose che servono al mio progetto scolastico e che sono più utili, e io dimostro. E questa trasparenza come verrà attuata sostanzialmente? Sarà disponibile sul sito internet della scuola, sul sito internet del Ministero? Che nella buona scuola uno dei punti era scuola trasparente, e questo voleva dire esattamente questo, cioè i curricula e quindi le storie anche, no? Didattiche, di studio degli insegnanti italiani, che finalmente saranno anche un patrimonio a loro disposizione, no? Perché questo poi significa poter conoscere, conoscersi. E questo varrà anche per i criteri di scelta dei presidi, cioè dovranno dire esplicitamente: scelgo questo docente per questo motivo, e farlo sapere pubblicamente. Certo, questa è, diciamo, la modalità, credo, che si applica anche in tutti quei paesi che hanno già attuato un principio veramente autonomo di educazione. Beh, mi dice, Ministro, perché resta il criterio dell'anzianità? Perché ci sono più soldi per fare il merito, mi scusi se traduco molto semplicemente. Cioè, spieghi. Voglio dire, noi siamo partiti con la consultazione, con l'inserimento di un principio nel nostro sistema scolastico rivoluzionario, cioè cominciamo a parlare di una possibile differenziazione di riconoscimento di premialità per la categoria degli insegnanti, che invece è sempre stata, no, in qualche modo ritenuta appiattita su livelli equiparabili, tutti gatti bigi nella notte. A questo punto il modello che era stato presentato, che ha subito diversi tipi, no? Lo ricorderà, dal 66% possibile al 70-30, il modello, dicevo, di premialità era sempre stato calcolato su un budget che non dava un di più. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo ritenuto, io credo in maniera assolutamente positiva e anche qui rivoluzionaria per il nostro sistema, di dare alla premialità soldi in più. Quindi la premialità con soldi, con risorse aggiuntive. Quindi resta l'anzianità, però ci sono risorse aggiuntive per la premialità. Attendere, secondo lei, però bisogna arrivare... 200 milioni, ma insomma è l'inizio di un processo. Attendere questa cosa dovrà diventare la norma sostanzialmente, Ministro, immagino, no? progressivamente l'anzianità dovrà sparire a un certo punto, o no? Come, scusi? L'anzianità dovrà sparire a un certo punto ed essere sostituita interamente, o resterà nel vostro progetto a lungo termine l'anzianità? No, a questo punto diciamo il principio che deve entrare e rafforzarsi è che si può e si deve riconoscere la differenza di prestazione, di sì, impegno degli insegnanti, e questo se si fa con risorse aggiuntive ovviamente è molto meglio. L'ultima domanda che le voglio fare riguarda questa ipotesi del 5 per 1000 per gli istituti scolastici, la possibilità di destinare il 5 per 1000 e di averne una detrazione fiscale consistente nell'ordine del 65%. Il punto è questo: non si rischia anche qua di creare una sperequazione, ossia nei luoghi, penso a una scuola del centro nella quale tutti hanno molti soldi, destineranno il 5 per 1000 al loro istituto scolastico, in una scuola di periferia magari del mezzogiorno, anche se decidono di destinare il 5 per 1000 non sono gli stessi soldi che possono dare in una scuola del centro di Milano. Ma è un rischio teorico e anche pratico che non avviene solo nel mondo della scuola, no? Fondazioni, per dire, o istituzioni anche di ambito sociale che si trovano in certi contesti più favoriti, più ricchi, è ovvio che attraggono fondi più facilmente e molto di più. Noi dobbiamo cercare di trovare dei correttivi, e se ne è parlato anche nel dibattito più recente di ieri, e naturalmente si può immaginare una parte di questo 5 per 1000 che venga poi utilizzato come quota perequativa. Questo è un punto che può ancora essere raffinato. Quello che è importante secondo me è istituire il principio. Quindi quest'ipotesi c'è, Ministro, cioè di creare un fondo perequativo che permetta di regolare questi fondi e magari di distribuirli a scuole più disagiate? Ma non è un'ipotesi che si trova nel testo attuale, però è un punto di discussione che sicuramente anche in Parlamento potrà emergere. Quello che io ritengo fondamentale, sia per questa norma, sia per l'introduzione degli sgravi fiscali con lo school bonus, sia per il riconoscimento della libertà di scelta educativa nello sgravio delle rette, per una quota delle rette dei bambini che vanno a scuole paritarie, mi sembra l'introduzione veramente di un grande principio innovativo. Ultima domanda, brevissima, sulla questione di decreto o meno. Avete varato un DDL, che tempi vi date per decidere se procedere magari solo su alcuni punti per decreto? Cioè il Parlamento... Ma il tempo lo dà il Parlamento adesso, sa? Noi abbiamo chiaramente, l'ha fatto il Presidente del Consiglio, l'ho fatto io e credo anche i parlamentari impegnati su questo tema. Abbiamo insomma la fiducia e la convinzione che il Parlamento farà presto e bene. Non è la sola cosa, come abbiamo già sentito, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. C'è stata anche una vicenda tra l'altro della quale ci siamo occupati e sulla quale vogliamo ritornare, ed è la legge cosiddetta anti-moschee della regione Lombardia, che impone dei criteri molto più rigidi per costruire i luoghi di culto. Ebbene, il governo ha deciso che contro questa legge ricorrerà alla Corte Costituzionale, ha deciso di impugnarla in sostanza. Era stata soprannominata la legge anti-moschee, approvata nelle scorse settimane dal Consiglio regionale della Lombardia, con i soli voti della maggioranza di centrodestra, aveva introdotto una serie di paletti anche per le altre religioni, fissando in particolare nuove norme urbanistiche più stringenti per l'apertura di nuovi luoghi di culto nella regione. Una legge che aveva suscitato dubbi e polemiche anche da parte di diversi rappresentanti religiosi e che aveva spinto al ricorso dell'opposizione. Dubbi che il governo ha fatto propri, decidendo di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale. È solo ritorsione, ha attaccato il governatore lombardo Maroni via Twitter, mentre il segretario della Lega Salvini ha definito Renzi e il ministro Alfano i nuovi imam. Grande soddisfazione invece da parte del PD lombardo e del comune di Milano. La legge aveva infatti aperto una forte polemica tra la regione e Palazzo Marino. Una scelta di civiltà l'ha definita l'assessore alle politiche sociali del comune Maiorino. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'Expo di Milano. Questa mattina visita i cantieri del Presidente del Consiglio. A seguire questa giornata c'era Cristina Carpinelli. Sì, è arrivato tra gli operai di Expo, si è fermato a parlare con loro Matteo Renzi, raccogliendo battute, strette di mano, un entusiasmo che poi una volta sul palco ha ricambiato. Siete voi, ha detto Renzi, la vera forza che ha permesso si realizzasse questo, che è un sogno per l'Italia. Poi una rapida carrellata di ciò che è stato Expo, mi dicevano di non metterci la faccia, dice Renzi. Infine le inchieste, il timore che l'immagine di Expo coincidesse con quella di corruzione. Per fortuna, aggiunge Renzi, alla fine abbiamo dimostrato di cosa è capace l'Italia. Sentiamo. Il fatto che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, chi ha seguito questo progetto vede che il cantiere non è più un progetto, uno schizzo, una slide, ma è una realtà, il fatto che questo sia accaduto dimostra una cosa molto semplice, che quando l'Italia rema tutta dalla stessa parte le cose si realizzano e i sogni prendono forma e i sogni diventano progetti che sono progetti realizzabili. La conferenza è terminata, il cantiere è ripartito, mancano 49 giorni, il 90% delle infrastrutture è finito, molti padiglioni sono a posto, ma da fare c'è ancora molto, per questo si lavora 7 giorni su 7, 20 ore al giorno, 3 milioni, ha detto Renzi, i biglietti venduti in Italia. E passiamo all'estero, per quanto iniziamo da un estero molto vicino, ossia la Grecia e l'Europa, ammesso che tutto questo si possa ancora chiamare estero evidentemente. Questa mattina l'incontro tra il premier greco Alexis Tsipras e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, la cronaca. Il percorso per arrivare ad un esito positivo è ancora lungo, ma di certo la giornata di oggi segna un passo in avanti. Tra la Grecia e l'Unione Europea sono in corso prove di disgelo. Tsipras si dice ottimista, Juncker vede una soluzione vicina, Schulz parla di interesse comune a risolvere il problema greco, che è un problema europeo. Il premier greco ha incontrato questa mattina il presidente del Parlamento Europeo e della Commissione e si è detto fiducioso che si possa trovare una soluzione per risolvere la grave crisi della Grecia. Quanto alle incomprensioni con altri paesi dell'Eurozona, secondo Tsipras bisogna andare avanti sulla base del compromesso del 20 febbraio in modo costruttivo. Credo che se c'è la volontà politica tutto è possibile. Parole di apertura anche dal presidente della Commissione europea Juncker, il quale però non ha mancato di sottolineare quanto sia necessario che il leader greco faccia passi in avanti. Non sono soddisfatto degli sviluppi della situazione, ha detto, ma cerchiamo di andare avanti verso una soluzione condivisa. Parole che si scontrano visibilmente con quanto arriva dall'Austria, dove è ancora il ministro delle finanze tedesco ad essere scettico su una soluzione possibile. Non escludo più l'ipotesi di un'uscita della Grecia dall'euro, dice il ministro tedesco. Intanto Atene ha dato ordine di ripagare una tranche da 348 milioni di euro del prestito ricevuto dal Fondo Monetario Internazionale. La somma sarà depositata oggi alla Banca di Grecia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E adesso andiamo veramente all'estero, a Tikrit, la città irachena al centro di una battaglia da giorni. Sarebbe stata riconquistata, ma come al solito in questo ambito le storie che arrivano dall'Iraq e dalla Siria vanno prese con le pinze, perché arrivano a volte da fonti non proprio certe. La cacciata dell'ISIS, o comunque questa nuova avanzata, è avvenuta ad opera dell'esercito iracheno, ma con la collaborazione non solo delle milizie sciite iraniane, ma anche degli stessi Pasdaran. Abbiamo chiesto ad Alberto Negri del Sole 24 Ore di spiegarci cosa rappresenta questo intervento di Teheran. L'offensiva irachena su Tikrit è un successo delle milizie sciite dell'Iran. Il regime degli Ayatollah non solo sostiene il governo di Baghdad, ma è intervenuto direttamente con i Pasdaran, le guardie della rivoluzione, sotto la guida del generale Qassem Soleimani, capo delle forze speciali, oggi uno degli uomini più in vista nella gerarchia politica e militare iraniana. L'Iran è dunque oggettivamente un alleato della coalizione internazionale a guida americana che lotta contro il califfato. In realtà è l'unico stato della regione che, difendendo i suoi interessi e la sua sfera di influenza, sta facendo davvero qualcosa sul terreno per fermare l'ondata barbarica dello Stato islamico. Qual è allora il problema? In primo luogo l'Iran allunga la sua mano sull'Iraq, non è una novità, ma questa volta avviene anche con un intervento militare. Il secondo aspetto da considerare è che i sunniti, ancora una volta, sono stati scavalcati dagli sciiti e questo potrebbe provocare ulteriori frizioni e conflitti. Una domanda però qui in Occidente dobbiamo comunque farcela: chi sono i nostri alleati nel mondo musulmano? Certamente non quelle monarchie arabe assolutiste proposte finora dall'America. È ora di cambiare registro e capire quali sono amici e nemici. Due anni fa, il 13 di marzo, Bergoglio veniva eletto Papa e annunciava da subito una serie di riforme sulle quali ha iniziato a lavorare. Fa il punto sul percorso fino ad ora compiuto un libro che è stato appena pubblicato da Taus. Si intitola Un Papa solo al comando, del vaticanista Gianfranco Swiderkowski. Katia Caramelli lo ha intervistato per mettere i riflettori proprio su quei punti sui quali Bergoglio vuole lavorare maggiormente, a partire dalla riforma del settore economico e finanziario. Il principio della trasparenza e il principio della serietà credo che siano finalmente entrati anche nella testa dei maggiori dirigenti vaticani, e quindi per il futuro non si ripeterà più gli scandali del passato. Riforma della curia è quella dove si va a rilento. Si dimostra che ci sono molte opposizioni dentro. Il Papa stesso in un'intervista una volta ha detto: un giorno facciamo una cosa, bisogna fare un dicastero nuovo, il giorno dopo bisogna farne due. E cioè che c'è la resistenza delle singole, dei singoli istituti, delle singole persone. L'unica cosa però, visto che questo era uno dei principi che erano stati suggeriti, quasi in qualche modo imposti dai cardinali elettori al Papa, che in due anni non si sia arrivati ad una riforma della curia. Cioè io mi chiedo, qualche progetto esisteva già, per esempio esisteva un progetto del cardinale Cocco Palmeri, e quindi diciamo è così difficile riformare. Se tu devi riformare la curia in un senso che la curia deve diventare di nuovo in qualche modo la segreteria del Papa, l'aiuto del Papa e un servizio per le chiese locali, beh, questo di per sé lo puoi anche risolvere anche in tempi brevi. Che ci siano state bisogno di due anni e ancora non è finita, ecco, questo mette un po' il sospetto. Infine, Gianfranco, il sinodo, andiamo spediti verso il sinodo ordinario, con che prospettive? Devo dire che dovrebbe riaggiustare il tiro il prossimo sinodo, e se è un sinodo che è stato convocato per la famiglia, che ci sia anzitutto un rilancio del progetto di Dio, quindi della famiglia cristiana, come è. Ma poi però per il resto delle novità sicuramente ce ne saranno, perché già è venuto fuori un atteggiamento più aperto nei confronti delle unioni civili e delle convivenze. Per quanto poi riguarda i divorziati e gli sposati, il Papa parlava soprattutto di integrazione. Non so se si arriverà, perché ci sono molte opposizioni ad ammettere l'Eucaristia. E siamo in chiusura con il calcio. Per parlare di calcio oggi, più che di Europa League, avete tutti i convocati che ve ne ha parlato per un'ora e mezza, potete anche scaricare il podcast di tutti i convocati una volta finito. Vogliamo occuparci di un compleanno particolare, celebrare un grande giocatore italiano e un grande giocatore della Roma, Bruno Conti, che oggi ne fa 60. Mino cammina che sembra un uomo, le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Chissà se De Gregori l'ha dedicata a lui, è uno di quei piccoli misteri che è bello non scoprire. Certo che quel Nino con le spalle strette e il cuore nelle scarpe sembra proprio lui, Bruno Conti, che oggi 13 marzo compie 60 anni e li compie con quella leggerezza con cui giocava al calcio, anzi ricamava con quel piede mancino che sembrava un pennello, come dicono i tifosi della Roma, che quel piccolo diavolo, il ragazzo di Nettuno, ce l'hanno sempre nel cuore. Chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai i giocatori tristi che non hanno vinto mai. Conti e Conti, l'estro, il dribbling, la generosità e la fantasia. Un calcio che sembra lontano anni luce dalla Babele attuale, col barone Lidom che consulta l'oroscopo, il grande Agostino Di Bartolomei che non muove un muscolo della faccia ma spara bordate tremende, e poi Falcao e tutti gli altri giganti di quel magico scudetto della magica. E poi Conti con la nazionale di Berzotte, Rossi e Pertini in quel mondiale che è ormai una pagina di storia d'Italia. Grazie Conti, tanti auguri e facci sognare ancora un po'. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Il ringraziamento oggi per la parte tecnica va a Valeria Bernardi, a tutti voi per averlo scaricato, con la consueta raccomandazione di iscrivervi per avere l'aggiornamento costante. Scrivetemi effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure il mio account Twitter Simone Spezia. Ci si sente lunedì alle 13:00.